Riprendiamo il nostro speciale in occasione della giornata della memoria facendo riferimento alla propaganda e all'importante ruolo che ebbe la radio. La propaganda nazista coinvolse tutti i mezzi di comunicazione, imperversavano manifesti, filmati, slogan. Nacque una sorta di nuovo linguaggio. Ne sono ad esempio termini quali arresto preventivo, soluzione finale del problema. Se pensiamo alla stessa scritta sul cancello d'ingresso di Auschwitz, il lavoro rende liberi, una frase che apparentemente può sembrare inoffensiva, ma che in realtà cela un significato spietato, la distruzione attraverso il lavoro. La Croce Rossa non portava i prigionieri negli ospedali, ma nelle camere a gas. Sulle stesse confezioni del gas il mittente era Società Tedesca per la Lotta agli Insetti Nocivi. Ogni parola era studiata. Il linguaggio, la voce, divennero tutti strumenti fondamentali per la propaganda del regime. E, come dicevo prima, un importante ruolo lo rivestì in quegli anni la radio. Si potrebbero paragonare le trasmissioni radiofoniche di allora alla televisione degli ultimi anni. Le trasmissioni erano controllate. Vi era una commissione di ascolto che stabiliva cosa doveva essere censurato e cosa no. Lo stesso Hitler, nel suo Mein Kampf, scrisse «La vera radio è propaganda». Il ministro stesso della propaganda, Josef Gruber, amava affermare che le notizie sono un'arma della guerra. Il loro scopo non è informare, ma vincere la guerra. In Italia le uniche reali notizie sull'andamento del conflitto arrivavano da Radio Londra. La sigla iniziale era in alfabeto Morse. Punto, punto, punto, linea, stava ad indicare la lettera V di Vittoria e ricordava il suono delle prime note della quinta di Beethoven. Dalla BBC, per leggere i testi in italiano, fu chiamato un colonnello dell'esercito inglese nato a Napoli, Raphael Gaetano Stevens, la cui voce divenne rapidamente popolarissima e amatissima, tanto che le truppe alleate nel loro sbarco in Sicilia trovarono ad accoglierle la scritta «Viva il colonnello Stevens». Oltre all'informazione sull'andamento della guerra, tramite Radio Londra venivano trasmessi dei messaggi in codice protetti da segreto militare e diretti alle truppe inglesi presenti sul territorio italiano oppure ai partigiani sulle montagne. In uno dei suoi discorsi, il colonnello Stevens esortava gli italiani all'ascolto, nonostante le minacce del regime che prevedevano, laddove scoperti, 2 mesi di arresto, 1.000 lire di multa e la confisca dell'apparecchio. Con la sua voce pacata, il colonnello Stevens diceva «Sappiamo che l'Italia ha sete di verità e senso comune e non è possibile allontanare dall'acqua le labbra degli assetati». E ancora più suggestiva è la descrizione di chi quei momenti li ha vissuti. Si stava curvi ad ascoltare. Di notte, magari con una coperta sopra perché ascoltare era proibito. Ogni tanto, fra fruscii e scoppi elettromagnetici, la manopola trovava la sintonia e spuntava una voce. Amico o nemica, in che linguaggio parlava? E le notizie erano buone o cattive? Si abbassava il volume? Si avvicinava all'orecchio con coraggio pari alla paura? Si ascoltava ogni volta una storia diversa? La nostra storia. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. 18 febbraio 1937. Dal discorso dei generali delle SS di Heinrich Himmler. Secondo gli ultimi censimenti, in Germania ci sono dai 67 ai 68 milioni di abitanti e quindi 34 milioni di uomini in cifra tonda. Di conseguenza abbiamo circa 20 milioni di uomini capaci di procreare. Se ammetto che ci sono da 1 a 2 milioni di omosessuali, vuol dire che il 7 oppure l'8, addirittura il 10% degli uomini sono omosessuali. E se la situazione non cambia, il nostro popolo sarà annientato da questa malattia contagiosa. A lungo termine nessun popolo potrebbe resistere a un tale sconvolgimento della propria vita e del proprio equilibrio sessuale. Il dominio sessuale può essere sinonimo di vita o di morte per un popolo, di egemonia mondiale o di riduzione della nostra importanza ai livelli della Svizzera. Un popolo che ha molti bambini può aspirare all'egemonia, alla dominazione del mondo. Un popolo di razza nobile, che ha pochissimi bambini, ha comprato un biglietto per l'aldilà. Non avrà più nessuno fra 50 o 100 anni e da qui a 200 o 500 sarà estinto. L'omosessuale mente, in maniera malata, non mente come un gesuita. Il gesuita mente con uno scopo preciso, mente per la gloria di Dio, quindi il gesuita mente e lo sa. Non dimentica per un solo attimo che sta mentendo. L'omosessuale invece mente e crede in ciò che dice. L'omosessuale è naturalmente un ideale oggetto di pressione, primo perché può essere condannato, secondo perché è un tipo malleabile, terzo perché è molle e senza alcuna volontà. Nella maggior parte dei casi voi vi accorgete che quello che si fa arrestare vi dà spontaneamente tutti i nomi di quelli che conosce, dunque, e devo adottare questo punto di vista, non c'è alcuna fedeltà nell'amore di un uomo per un altro uomo che assomigli minimamente alla fedeltà tra uomini, benché questa gente parli d'amore. L'omosessuale dice tutto senza freni e senza dubbio con la speranza di salvarsi la pelle. Dobbiamo capire che se questo vizio continua a diffondersi in Germania, senza che noi possiamo combatterlo, per la Germania sarà la fine. La fine del mondo germanico. Purtroppo il compito non è facile. Era la notte tra il 29 e il 30 giugno del 1934, quella che viene ricordata come la notte dei lunghi coltelli. La Seconda Guerra Mondiale era alle porte quando il cancelliere Adolf Hitler ordinò uno dei più rapidi blitz della storia a discapito delle truppe d'assalto SA di Ernest Röhm, l'amico di camerata che aveva contribuito alla sua scalata al potere. Si trattò di un vero e proprio regolamento di conti all'interno dello stesso nazionalsocialismo che vide da una parte le SA, le truppe d'assalto di Röhm, e dall'altra le SS, i reparti di difesa di Himmler. Le differenze tra i due corpi paramilitari erano abissali. Nelle SA, definite da Hitler il male necessario per la sua scalata al potere, vi erano uomini di ogni tipo, disoccupati, ex militari, reitti della società, con a capo Ernest Röhm, personaggio divenuto scomodo per la sua dichiarata omosessualità. Le SS invece rappresentavano l'élite della gioventù nazista, l'ideologia dell'uomo nuovo. Per farne parte bisognava superare un esame che accertasse la discendenza ariana ed i comportamenti dei suoi rappresentanti dovevano essere ineccepibili. Hitler, convinto dai suoi collaboratori Göring e Himmler che Röhm stesse tramando alle spalle del potere centrale, ordinò il massacro di centinaia di militanti delle SA. 4 anni dopo, tra il 9 e il 10 novembre del 1938, un'altra notte fu teatro della ferocia nazista, quella che viene ricordata come la notte dei cristalli. Le violenze furono scatenate dal gesto di un giovane ebreo che, recatosi all'ambasciata di Parigi, sparò al secondo consigliere, Von Rath, ferendolo gravemente. 3 giorni dopo vennero date alle fiamme le sinagoghe, saccheggiati i negozi di ebrei, alcuni israeliti vennero uccisi ed almeno 30.000 chiusi nei campi di concentramento. Lettera del Ministro della Giustizia del Reich Otto Tirak al Reich Kommissar per i territori della Norvegia occupata a Oslo. 18 giugno 1942. Sinora i risultati dei colloqui della Commissione Ufficiale per la Legge Criminale del Reich non prevedono di rendere punibili atti innaturali tra donne. Le principali ragioni sono queste. L'attività omosessuale tra donne, ad eccezione delle prostitute, non è così diffusa come tra gli uomini e, dati i più diffusi tipi di relazioni sociali tra donne, è più facile sfuggire al controllo pubblico. Ne consegue che la maggiore difficoltà di individuare tali comportamenti comporterebbe pericoli di testimonianze e indagini infondate. Una delle principali ragioni per punire atti sessuali tra uomini, vale a dire la distorsione della vita pubblica a causa dello sviluppo di legami di dipendenza personale, non ha ragione di essere per le donne, a causa del loro minor peso nella società e nel pubblico impiego. Infine, le donne che indulgono in relazioni sessuali innaturali non sono impedite del tutto come agenti procreativi, diversamente dagli omosessuali uomini, anche perché l'esperienza mostra che in seguito le donne tornano spesso a relazioni normali. Ci fanno mettere in fila, una davanti all'altra. Siamo 10, 100, 1000. La donna bionda, con la stella cucita sul vestito, urla in una lingua che non capisco. Agita le mani. Tira per i capelli una ragazzina che non smette di piangere. Cattura il suo trofeo e porta il ricciolo scuro alla bocca. È nuova, si vede. Quelle nuove sono le più cattive. Accarezzano la loro fortuna. Non sanno che continueranno a respirare la stessa neve, il vento e il fumo. Tu sei poco avanti a me. Ti riconosco anche se porti il fazzoletto sulla testa e tieni le spalle chine. La tua andatura è solo tua. Trascini con cautela la gamba destra e la spalla disegna insieme un piccolo arco, come un inizio di piroetta. Con il dito traccio una linea immaginaria sul tuo collo che non vedo. Sfioro il piccolo neo color caffè che hai sulla scapola sinistra. E poi giù, tra i fori e le toppe e i rattoppi di quel vestito stretto. Camminiamo. La donna con l'uniforme urla ancora più forte e io non ascolto i pianti e i sussurri dietro di me. Chi dice che stiamo andando là? Sì, là, dove ti spogliano e ti rinchiudono e ti rasano a zero e poi tutto finisce. Certe cose non dovremmo saperle, ma le sappiamo, perché il posto è piccolo e la gente chiacchiera. I piedi nudi scottano sulla terra arroventata e io guardo le tue dita così piccole, l'alluce, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo, e vorrei leccare uno a uno i tagli e le bruciature su cui cammini, come quel pomeriggio d'estate di ritorno dal lago. Anche là il posto era piccolo e la gente chiacchierava. Chiacchierava della forestiera che veniva dalla città e fumava come un uomo e frequentava locali dai nomi bizzarri. Io ti ho fatta sbocciare tra i fiori di quel prato vicino al lago, dove la rugiada scendeva e tu non parlavi, e io baciavo le tue ciglia e i tuoi capelli e respiravo il tuo odore di gelsomino e di erba bagnata e tenevo la testa sul tuo petto e mi cullavo del battito del tuo cuore e ho sussurrato 10, 100, 1000 volte il tuo nome finché l'asfissia mi ha strappato via la voce, finché ci hanno trovate, la mia testa appoggiata sul tuo petto, e nemmeno allora parlasti. Dalla tua bocca solo un respiro prolungato, un lieve gemito, come quello che ora, senza lago e senza rugiada, piangi camminando sulla ghiaia. La voce della donna bionda con le scarpe ti rimbomba nelle orecchie come uno sparo e le prime della fila cominciano a entrare. Le loro ombre si tolgono il fazzoletto dalla testa, si sfilano l'abito su per il collo, lo lasciano cadere a terra e l'unico triangolo nero che resta loro addosso è quello marchiato sul ventre, quello che più di ogni altra cosa ho desiderato, amato e sognato tutti i giorni della mia vita e che desidero e amo e sogno anche ora, anche se tu non mi guardi, perché io per te sono morta quando tutti urlarono quel pomeriggio d'estate di ritorno dal lago. Un grido lungo e senza parole, perché non ci sono parole per noi. Non siamo nate con il privilegio di essere chiamate per nome. E la donna dagli occhi neri raccoglie un sasso da terra e finge di lanciarlo e poi ride, poi grida «Schnell, schnell, schnell!» E io brucio nei piedi e nel cuore perché tu mi guardi ancora, una volta ancora prima di entrare, prima di sfilarti il fazzoletto dalla testa e l'abito su per il collo, prima che facciano scempio dei tuoi capelli e stracci del tuo triangolo nero. E cammini dritta, in fila indiana, e io ti seguo ancora, e ti cerco con gli occhi, e vorrei tenere la mia mano nella tua mano ancora una volta, un'ultima volta, e chiudono le porte, e la stanza comincia a soffiare, e non respiro, non respiro, non respiro. Avete appena ascoltato il racconto scritto ed interpretato da Marta Traverso del collettivo Linea S, ed è con loro che abbiamo pensato di realizzare questo speciale omocausto. Marta Traverso è nata e vive a Genova. Le parole sono il suo lavoro. Si occupa di giornalismo, editoria, social media e comunicazione d'impresa. Il prossimo racconto che ascolteremo è di Andrea Fabiani. Nato alla Spezia, scrive racconti e poesie dall'età di 16 anni. Trasferitosi a Genova, entra a far parte del laboratorio di scrittura creativa Officina Letteraria, dove conosce Giulia Cocchella, Federica Kessisoglu, Dario Manera e Marta Traverso, gli autori dei racconti che vi facciamo ascoltare. Insieme condividono la passione per la scrittura e decidono di fondere le diverse esperienze maturate nei campi della comunicazione, del teatro e dell'editoria al fine di sperimentare nuove tecniche di narrazione, dando vita al collettivo Linea S. Vi lascio quindi in compagnia di Andrea Fabiani col suo racconto dal titolo In ascolto. Lui diceva spesso che per una cosa così sarei letteralmente impazzito. Io lo prendevo in giro. Che me ne faccio? Ho le mie orecchie, ho i miei taccuini. Lui insisteva. Dovresti comprartene uno invece. E con che soldi? Ribattevo. Te ne ruberò uno io, domani, al lavoro. Lui allora aveva 27 anni, faceva l'ingegnere, lavorava in una grande industria dove si fabbricava questo apparecchio che consentiva di registrare ogni tipo di suono su un nastro, magnetofono si chiamava. Lui era bellissimo, io grassoccio e un po' strano, non so davvero come potessi piacergli. E rischieresti il licenziamento per me? Gli chiedevo ridendo. Per te, rispondeva, andrei anche all'inferno. Io a 8 anni ho avuto un'infezione all'orecchio, il destro. Avevo un costante ronzio di fondo e i rumori mi arrivavano come se avessi la testa sotto una coperta. Per distinguerli, capire da dove venissero e cosa fossero, dovevo stare attentissimo, così attento che spesso mi veniva il mal di testa da tanto che stavo attento. I dottori dissero che non c'era niente da fare, sarei peggiorato fino a diventare sordo. Erano così certi che i miei genitori me lo dissero per prepararmi. Mi dissero che non avrei sentito più niente, così decisi che dovevo fare scorta di suoni, ricordarne il più possibile, per quando non ne avrei più sentito nessuno. E passai mesi in ascolto, ancora più attento di quanto non fossi stato fino a quel momento. Non vi dico i mal di testa. Poi l'infezione, o quello che era, sparì così come era cominciata, senza una ragione, come cominciano e finiscono quasi tutte le cose. Passarono pure i mal di testa, restò una cosa diversa. Io non dimentico nessun rumore, non posso nemmeno volendo. Li sento tutti, li distingo uno dall'altro e li ricordo. Mi si imprimono nella memoria, per sempre. Non voglio dire che ho una buona memoria, anzi, a parte i rumori, io ho una memoria pessima. Di lui, ad esempio, non saprei dirvi com'era vestito la prima volta che ci siamo visti. Non saprei forse nemmeno descrivervi bene il suo volto, che se c'è una cosa che proprio non sono, è fisionomista. Ma conosco perfettamente e posso ricordare ogni volta che voglio il suono che avevano i suoi passi quando saliva le scale di casa mia. Ricordo la tonalità dorata della sua voce quando mi diceva ti amo. Quando ci siamo conosciuti, Berlino riusciva ancora ad essere splendida in primavera. Anche se i segni di quello che sarebbe successo si potevano intuire tutti, a stare solo un po' attenti. Lui ogni tanto si incupiva. Io gli dicevo di non badarci. Pensa ad altro, gli dicevo accarezzandogli una guancia. Pensa a me. Io non sono riuscito a prestare mai attenzione a nient'altro che ai suoni. Quando stavo con lui, ancora di più. Suono del rasoio che gratta la sua pelle mentre si rade. Suono della sua mano che scivola sopra il lenzuolo. Suono dei suoi gemiti. Suono di un sì pronunciato nello spasimo dell'orgasmo. Le mattine di fine maggio, il sole entrava di traverso dalla finestra del mio appartamento. Lui dormiva, io lo guardavo e ascoltavo. Suono del suo respiro all'alba, dopo una serata, con troppo vino. Ogni tanto mi diceva, dovresti venire a lavorare con me, ci metto una buona parola io, ti faccio assumere. Ma cosa ne so di magnetofoni, rispondevo. Tu, mi diceva, sei un magnetofono vivente, chi vuoi che ne possa sapere più di te? A quel tempo io ero nel pieno del mio fervore enciclopedico, portavo sempre con me un taccuino, ovunque andassi, ci annotavo ogni suono che mi capitasse di sentire. Suono del canto di un passero su un ramo di olmo alle 3 del pomeriggio. Suono delle rotaie del tram in arrivo alla fermata di Alexanderplatz. Andavo avanti da anni, coltivavo il sogno un po' sciocco di classificare tutti i suoni del mondo, o almeno il maggior numero possibile. Avevo scatoloni pieni di taccuini colorati, pieni di suoni. Suono dell'acqua che bolle nella pentola che mi ha regalato mia madre. Suono della catena della mia bicicletta. Suono del cigolio della porta di camera. ne avevo la casa zeppa di quei taccuini. Lui diceva, prima o poi te li butto o li brucio, provaci, gli rispondevo. Ci avvicinavamo l'un l'altro con gli occhi cattivi e il sorriso che si allargava a ogni passo. Poi mi baciava, poi lo baciavo. Poi facevamo di nuovo l'amore. Poi i miei taccuini li hanno bruciati davvero, anni dopo, quando sono venuti a prendermi. Io e lui allora avevamo già rotto da un po'. Pensavo che lui si fosse allontanato da me apposta per non rischiare l'arresto. Pensavo si fosse trovato una donna. Pensavo avesse messo su una famiglia. Lo pensavo e lo speravo, ma continuavo ad aspettarlo. Suono di passi sulle scale. È la signora Gruber. Suono di passi sulle scale. È il signor Cole. La mia maledetta memoria sonora mi impediva anche di sperare. Suono di stivali sulle scale. Sono soldati, ma ho dovuto aprire la porta per saperlo. Era un suono nuovo per me. Ora sono qui e continuo. Non posso scrivere, ma non importa. Non è mai stato importante. Posso sempre registrare tutto nella memoria. Sono un magnetofono, no? Qui sento cose che non avevo mai sentito prima, che non si sentono da nessun'altra parte. Suono di colpo di tosse nel buio della camerata 7, suono di denti che battono per il freddo, suono della mia bocca che mastica una patata marcia. Qui mi hanno tolto tutto, i vestiti, i miei pochi averi, i capelli, la dignità, perfino il nome. L'unica cosa che non hanno potuto togliermi è il mio udito. Per togliermi quello dovranno togliermi la vita, e lo faranno, non ho nessun dubbio. Qui funziona così. Suono di colpo di fucile Car 98K, suono di colpo di pistola Mauser P08, suono di colpo di P38, tonfo di corpo che cade nella neve, leggermente diverso, a seconda del peso, nemmeno questi posso dimenticarli. Vorrei, ma non posso, è la mia condanna. Da qualche tempo mi va meglio che altri, per ora li servo. Mi hanno messo a lavorare in una fabbrica qui vicino, 6 km di marcia. Suono di 100 paia di piedi nel fango. A selezionarci è venuto un inviato di una grande ditta che, per sfruttare un po' di manodopera gratuita, ha aperto uno stabilimento all'interno di un sottocampo. L'inviato ci ha passato tutti in rassegna durante l'appello del mattino, con uno sguardo piuttosto distratto, parlottava con due SS a noi, a quelli che sceglieva, ci indicava e basta. L'ho riconosciuto dalla voce, se no forse non me ne sarei accorto. Ve l'ho detto che non sono fisionomista. Lui non credo che mi abbia riconosciuto, non credo sia facile riconoscermi adesso. E seppure mi ha riconosciuto, ha comunque fatto finta di niente. Lavoriamo dalle 10 alle 14 ore ogni giorno, e la ditta, indovinate un po', è sempre la stessa, quella dei magnetofoni, solo che qui non costruiscono magnetofoni, qui assembliamo componenti elettroniche per aeroplano. A modo suo, è stato di parola, mi ha fatto assumere. Non l'ho mai più visto. Suono dei suoi passi che si allontanano dietro l'angolo del blocco 5. E nel vederlo, quell'ultima volta, non ho provato niente. Una volta ho sentito l'amore. Ora più niente. Né amore, né odio, né rabbia. Ora sento soltanto suoni. Suono del respiro che ancora esce dalla mia bocca. Suono del mio cuore che batte ancora. Quando tutto questo sarà finito, perché tutto questo finirà, io non so come, ma finirà, perché le cose finiscono sempre. Quando tutto questo sarà finito, io non ci sarò più, ma immagino che probabilmente cercheranno di nascondere quello che è successo qui, di farlo passare sotto silenzio, si dice così. Ecco, io di memoria e verità non sono ferrato, ma una cosa posso dirvela con certezza: il silenzio non esiste. Non ci credete? Fate la prova. Restate fermi, non parlate, chiudete gli occhi, fate molta attenzione, concentratevi, come facevo io da bambino. E non preoccupatevi, per una volta che lo fate non vi verrà mal di testa. Provate. Sentito? Suono del vostro respiro, suono del respiro della persona che avete accanto. Il silenzio non esiste. È solo una questione di attenzione, dipende tutto da quanto decidete di stare attenti. Volete farmi un favore? Quando tutto questo sarà finito, quando io sarò morto, quando cercheranno di fare silenzio, voi non limitatevi a non dimenticare. Voi restate sempre attenti, state sempre in ascolto.